però abbiamo detto le donne hanno bisogno, qual è una sfaccettatura della bellezza che è importante prendere in considerazione, la femminilità e tutti gli aspetti della femminilità, quindi la moda e tutto quello che serve, il benessere e ecco, degli aspetti che vanno considerati, sono anche arte, infatti noi con noi avremo una stilista, non abbiamo un prêt-à-porter, abbiamo proprio una stilista, una creatrice di moda, e poi l'arte, perché la cultura, perché una donna, diciamo, e qui mi rifaccio una bellissima frase, mi viene adesso di Tommaso Moro, quando scriveva una lettera al precettore di sua figlia, diciamo, riflettendo sul fatto che lo criticavano perché nel 400, nel 500 lo criticavano perché lui faceva studiare a sua figlia latino e greco, e allora Tommaso Moro sottolineava questo aspetto che le donne, più che mai le donne, proprio per la loro bellezza, per la loro femminilità, per la loro bellezza esteriore, è importante che coltivino la loro intelligenza, perché poi la bellezza sparisce, ma più che mai, anche lui sottolineava, è importante l'intelligenza e la cultura, coltivare la propria interiorità e le proprie doti intellettuali, perché la bellezza può fare correre brutti rischi. Beh, e quindi ecco, vediamo che ci siamo concentrati su questi aspetti. Io, diciamo, i titoli ve li siete già goduti, avete visto qui, chiaramente avete capito che io sono Rosalba Sanmataro, che non mi conosce, e non sono Fulvia Fratantoni, che purtroppo non ha potuto partecipare, quindi mi sono ritrovata tra capo e collo questo ruolo che non era diciamo previsto. Allora, vediamo la bellezza, ecco, cosa dire della bellezza? Niente, perché poi dice tutto Paola, intanto, poi dopo parlo io domani. Allora, però due cose importanti dicevo prima. La bellezza, io direi un po' quello che diceva Sant'Agostino del tempo, se nessuno me lo chiede lo so, ma se qualcuno me lo chiede non so più che dire, del tempo più che mai, ma della bellezza pure, perché uno dice, ah, bellezza, è bello quello, poi è bello quello che piace, non è bello quello che piace, a me piace questo, ma... allora c'è un concetto di bellezza molto, domani ci torneremo su questo concetto, però sicuramente sono due sensi molto legati alla bellezza, la vista e l'udito, ecco perché in fondo noi abbiamo puntato su questi, fuori c'è molto da vedere, qui penso che ci sia molto da ascoltare. Allora, prima di passare, di presentare brevemente, perché mi sono arrivati due curriculum di Paola Binetti, uno di mezza pagina, ed è quello che userò, e uno di 35 pagine, che è quello che vi andrete a vedere sul sito di Paola Binetti, perché non mi permetto di enumerare, di non tediarvi, ma... Allora, su Paola Binetti si possono dire tante cose, le cose più belle non si diranno mai in pubblico così, però sicuramente le cose essenziali, bisogna dirle, e chi spegne la luce, tanto poi si illumina qui in mezzo. Allora, Laura è laureata in medicina e chirurgia, uno che l'ha vista sempre in campo di orientamento familiare, cioè, è laureata in medicina e chirurgia, Università della Cattolica del Sacro Cuore, specializzata in neuropsichiatria infantile, quindi è psicoterapeuta. Professore ordinario di storia della medicina all'Università Campus Mio Medico di Roma, a cui ha dedicato e ha profuso moltissime delle sue energie, ha resistito e sopravvissuta, comunque il campus pure. Attualmente è deputato al Parlamento della Repubblica Italiana nella 16ª legislatura, così facciamo la cultura civile, mentre nella 15ª legislatura, che è ancora in piedi, e nella 16ª, sì, ma mi mancava quella frase, l'ho aggiunta dopo, è stato senatore della Repubblica nella 15ª legislatura e membro della 12ª commissione sugli affari sociali. È interessante sapere che in Parlamento lavorano molto nelle commissioni, è una cosa che ho scoperto dopo col tempo, però che le commissioni lavorano molto, e della commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, a voglia di lavoro, autore di numerose pubblicazioni, ben 25 libri di carattere scientifico, numerosi interventi anche di carattere politico sulla stampa nazionale e internazionale, è membro di numerose associazioni ed è il presidente dell'Associazione Culturale Etica e Democrazia. Io forse ho un tono un po' leggero, però spero che la mia amica Paola non me ne voglia. Ha presentato 20 proposte di legge, questo penso che ci possa interessare, come primo firmatario nella 16ª legislatura, a vantaggio della famiglia, a tutela della salute, ed è cofirmataria di 80 proposte di legge su temi analoghi: tutela diritti umani, ricerca e formazione universitaria. Sappiamo che da sempre questi temi hanno appassionato la professoressa Paola Binetti: formazione, ricerca, diritti umani, famiglia, vita. Ecco perché ci siamo permessi, gli abbiamo chiesto di fare uno strappo e venire in questa terra quasi africana, ma con molto piacere, l'Africa è la salvezza del mondo, diceva qualcuno di mia conoscenza che Cristo si è fermato ad Eboli, no, che la salvezza, come dire, viene dal sud, diceva qualcuno, dall'Africa, veramente ci verranno a salvare spesso. Allora, lascio a lei adesso, scusatemi se vi ho rubato qualche minuto del suo tempo, noi abbiamo ben 2 ore, 10:30, no, sono 10:30, non mi dire? Sì, sì, sì. Perfetto, alle 10:30 dovevo lasciare la parola alla professoressa Palamenti, gliela lascio. Voi, finché resistete, dico semplicemente una cosa, c'è un circuito chiuso per cui c'è un televisore, lo dico per qualcuno che a un certo punto può dire io boccheggio qua dentro, non ce la faccio più, ho bisogno di aria, c'è una mamma in attesa, non lo so. Allora, c'è un'altra stanza dove c'è il circuito chiuso, quindi se qualcuno si vuole allontanare, ecco, vuole andare lì, ecco, c'è anche questa possibilità. E c'è ancora un posto libero negli avamposti dove non interroghiamo nessuno, vero Paolo? Benissimo. Allora, l'unica cosa che Rosalba non ha detto è che siamo amiche, io penso, quasi da 40 anni, quindi di stare qua. Vi dirò che l'ultima volta che era stata a Calarossa credo che fosse nel 1975, e la cosa che mi ha sorpreso di più è stata veramente la bellezza della natura, del verde, che in qualche modo dà anche al mare, all'esperienza dell'infinito del mare, come dire, quella dimensione della concretezza della terra, no? Che mi ricorda una espressione molto cara al fondatore dell'Opus Dei, quando diceva che il cielo e la terra si uniscono non laggiù nella linea dell'orizzonte, ma nel cuore di ognuno di noi, no? Quindi questo vedere la bellezza della terra e la bellezza del mare stamattina mi ha dato una grande emozione, anche se poi ricordo i tramonti. Adesso vediamo se oggi pomeriggio riusciremo a godere della bellezza di uno dei tramonti siciliani, che ho in qualche modo nella testa e nel cuore, che quindi sono state una delle ragioni, no, per venire a fare un bagno, una sorta di immersione nella bellezza qui in Sicilia. Una sorta di bellezza che è il frutto indubbiamente della natura così com'è, perché il mare, l'isola, appunto tutto quanto, proprio la cala così come si presenta a noi è qualcosa che ci è stata regalata così com'era, quindi la bellezza di questa natura, ma anche la bellezza della cultura, in questo senso proprio di una cultura che si è fatta arte nell'armonia dei giardini, dei fiori, degli alberi, che non c'erano, cioè io posso garantire che non c'erano, che forse sono state proprio la novità di questa mattina, e questo è proprio l'intervento nell'uomo sulla natura, in modo, come dire, da valorizzare quello che c'è e di aiutare la natura a esprimere al massimo le sue potenzialità. Ecco, questa mia introduzione è un modo per dirvi cosa penso io che sia la bellezza. Da un lato è un rispetto per il bello che c'è, quindi è quella capacità di guardare con occhi di ammirazione, con occhi di stupore, lo stupore straordinario che coglie, se volete, Adamo quando scopre di avere, svegliandosi da quel famoso sonno, scopre di avere vicino a sé Eva. Ecco veramente qualcuno che è carne della mia carne, quella bellezza della scoperta, di cui ognuno di noi può soltanto con grande umiltà sentirsi spettatore. E dall'altra parte però la bellezza è anche qualcosa che muove dall'interno di ognuno di noi la capacità di mettere in gioco i propri talenti, la propria intelligenza, la propria cultura. Stamattina, facendo questa passeggiata in questo giardino che circonda Calarossa, e una persona che mi accompagnava diceva: perché sai, questo a suo tempo fu disegnato anche da un architetto di giardini, cioè da qualcuno che conosceva la natura, che conosceva le piante, che era in grado, con 30 anni di anticipo, di immaginare che cosa sarebbe potuta diventare questa bellezza. Questa capacità di immaginare la bellezza e nello stesso tempo la competenza del saper creare, la competenza del saper creare la bellezza, diventano veramente quella sintesi straordinaria che dà ragione appunto delle mille sfaccettature della bellezza. Quindi non c'è solo l'atteggiamento, che non è mai passivo, attenzione, non c'è solo l'atteggiamento dello stupore che contempla la grandezza, cioè la bellezza creata da altri, ma c'è anche quel coinvolgimento da protagonisti di ognuno di noi che contribuisce davvero a realizzare in questa bellezza che ci è stata donata quella pienezza di bellezza, cioè quel valore aggiunto che è il frutto del nostro buon gusto, che è il frutto della nostra competenza, che è il frutto della nostra dedizione, che è il frutto anche di una fatica di ogni giorno che mantiene una bellezza che continuamente si crea e si ricrea. In questo senso io credo che è un po' il mistero della bellezza che riguarda l'uomo, e in questo è anche tutto l'atteggiamento, io direi, della grande maturità e del grande equilibrio, in cui poi farò alcuni esempi concreti, e noi possiamo disporci a godere della bellezza. La prima cosa è appunto questa: sapere che è qualcosa nella quale noi dobbiamo soltanto essere grati. La prima dimensione della bellezza, accanto allo stupore e alla contemplazione, è la gratitudine per qualcosa che ti è stato donato appunto in modo totalmente gratuito. Non c'entrano i tuoi meriti, non c'entrano le tue capacità, non c'entra nulla di questo, c'entra soltanto qualcuno che a un certo punto ha deciso di farti dono di questa infinita bellezza. Ma questo qualcuno che ti ha fatto dono di questa infinita bellezza, come dire, al di fuori di te, la bellezza che tu contempli, ti ha fatto dono anche di una straordinaria bellezza all'interno di te, che sono i tuoi famosi talenti, che sono le tue capacità, che tu però devi mettere in gioco non in una dialettica distruttiva rispetto a ciò che ti è stato dato, ma devi metterla in gioco in una dialettica che è in qualche modo di perfezionamento di ciò che ti è stato dato. Quindi tu non sei esonerato dal mettere a servizio della natura, ma anche a servizio di chi ti sta accanto, delle persone che ti circondano, non sei esonerato dal mettere a loro disposizione i tuoi talenti, ma non puoi nemmeno farlo esclusivamente secondo me. C'era un, diciamo, forse uno dei nostri più famosi, voi lo ricorderete sicuramente questa dialettica, uno dei più famosi scrittori italiani, Michelangelo, che diceva che in realtà la pietra aveva già al suo interno la sua forma e tu dovevi semplicemente di Michelangelo, evidentemente, dovevi semplicemente estrarre quella forma che era già contenuta in quella pietra, e che quanto più tu eri capace, guardando quella pietra, di capire qual era la sua forma, e quindi dovevi metterti in dialogo, come dire: dimmi pietra chi vuoi essere, o dimmi pietra chi puoi essere. Quindi in questo atteggiamento, che al tempo stesso di rispetto, ma anche di una audacia maieutica, perché generare la bellezza è continuamente stare in una disponibilità di chi è capace di fecondare ciò che gli è dato, perché è una realtà che in qualche modo preesiste, ma che quando il suo intervento l'avrà, come dire, perfezionata, avrà un valore maggiore di come noi l'abbiamo lasciata. Questo è in qualche modo un po' il capolavoro. E guardate, questa è anche una ricchezza straordinaria dell'Italia. Ci sono, la bellezza è a disposizione degli uomini di tutto il mondo, noi possiamo viaggiare e vedere bellezza, come dire, dovunque. Ma c'è anche una bellezza particolarissima italiana, che è quella che è anche la nostra, proprio la cifra della nostra cultura, la cifra della nostra tradizione. Ed è questa armonia costante e continua tra il lavoro dell'uomo, l'architetto, l'urbanista, lo scultore, e, diciamo il contadino, se lo volete dire nella semplicità di alcuni gesti, ma anche colui che ha progettato e programmato la civis nella complessità delle sue manifestazioni, cioè in questa armonia continua si crea bellezza. Detto questo, si capisce bene allora che, dovendo parlare di sfaccettature della bellezza, mi sembrava che potessimo comunque immaginare come perlomeno quattro sfaccettature sulle quali ragionare un po' insieme. La prima è la bellezza del fare, la seconda è la bellezza dell'amare, la terza è la bellezza dell'essere e la quarta è la bellezza del sapere. Dirò poi perché sono un po', se volete, in questo tipo, perché le ho citate in questo tipo di ordine. Di cominciare dalla bellezza del fare, perché forse potremmo dire che è quella più facilmente cade sotto i nostri occhi. Tutti noi ogni giorno possiamo essere, lasciatemelo dire così, facitori di bellezza o non essere facitori di bellezza. E questo è il primo interrogativo che io pongo ad ognuno di noi, perché è chiaro che c'è la bellezza dell'uomo di Monreale, so che domani pomeriggio verrà a parlare, no? Cioè la bellezza del Duomo di Monreale, come, non so, la bellezza di un tempio greco, come c'è la bellezza appunto della Cappella Sistina, come c'è la bellezza di una sinfonia, come c'è la bellezza di un quadro, quello che volete, dei pittori che vi sono più, come dire, più cari di quelli che voi apprezzate maggiormente. C'è questa bellezza capolavoro nei confronti della quale noi possiamo solo assumere l'atteggiamento di chi contempla e nei confronti della quale vale la pena veramente riuscire a investire del tempo, a dedicare del tempo. Ve lo dico in una maniera così un po' rapida: guai di colui di noi che non avesse mai tempo per andare a contemplare questa bellezza. È evidente che non ci andremo tutti i giorni, è evidente che non ci andremo una volta alla settimana, forse non ci andremo una volta al mese, forse non ci andremo nemmeno una volta al trimestre, ma se tutti potessi chiedere da quanto tempo io non vado, e se questo tempo si perdesse nella tua memoria, forse è il caso di dire: è bene che io torni a contemplare questo tipo di bellezza di arte. L'arcivescovo, non a caso, l'arcivescovo di Firenze, che è stato in questi giorni su tutti i giornali, sapete perché c'è stato, ha subito questa aggressione per la quale il suo segretario personale ha esposto direttamente e immediatamente la vita, e questo poi lo vedremo come la bellezza dell'amare che dà la vita per le persone che si amano, e ha detto, parlando proprio di Firenze, ha fatto una sorta di, come dire, di catechesi della bellezza. Firenze era sulla pagina della cultura di ieri, di Avvenire, e diceva sostanzialmente come la bellezza è una ferita che rivela all'uomo l'immagine di Dio, perché a volte la bellezza è talmente l'emozione che ci provoca la bellezza nel contemplare una cosa è talmente intensa da poter essere percepita da qualcuno di noi come una sorta di ferita che ti fa percepire acutamente il senso della tua finitezza, il senso del tuo limite, e ti apre a una contemplazione che è quella dell'autore della bellezza, cioè Dio stesso. E questa immagine della bellezza di un fare che fa arte è qualcosa che noi non possiamo dimenticare, perché è proprio nel DNA della cultura, della tradizione italiana e sicuramente della cultura e della tradizione siciliana. Ma nella bellezza del fare ci sono anche questi gesti a cui si riferiva prima Rosalba, e che sono la bellezza di chi crea la moda. Perché non è soltanto la bellezza del creare l'oggetto della moda, perché la finalità specifica dell'oggetto della moda è il creare attraverso la bellezza dell'oggetto la bellezza di un soggetto, in questo caso specifico di una donna. E creare la bellezza di un soggetto, per l'appunto la donna, significa creare una bellezza che a sua volta nella dinamica dei rapporti umani rende quella persona, come dire, più amabile, come dire, più degna di una sorta di attenzione da parte di chi gli sta vicino, più degna di una sorta di apprezzamento per ciò che è, per ciò che indossa, per ciò che in qualche modo lei stessa è chiamata a fare. Questo lo dico perché la bellezza del fare, la bellezza dell'amare, la bellezza dell'essere, la bellezza del sapere, in realtà sono giustamente sfaccettature di un unico prisma, esattamente come era il Depliant vostro, no? Che era una sorta di prisma dalle infinite sfaccettature. Allora, in questa però, dicevo, bellezza del fare, ci sono anche questi oggetti della nostra quotidianità. C'è uno, come già la bellezza dei vestiti che trovate qui esposti, è molto particolare, non è esattamente la bellezza del quotidiano, perché già c'è un'eleganza, una, come dire, una, anche se volete, una ricchezza dei tessuti, l'impalpabilità di certe, come dire, di certe stoffe, l'armonia di certi colori, la morbidezza, quella soddisfazione che ti dà il tanto. E anche quella noi in qualche modo la contempliamo, in qualche modo la tocchiamo, in qualche modo forse qualcuno di noi l'indossa anche. Ma io voglio scendere ancora di più alla concretezza della bellezza nel fare nel quotidiano. E vorrei fare tre esempi molto piccoli, molto semplici, ma per capire come noi siamo sollecitati in questo senso. Pensate la bellezza del momento in cui la famiglia si riunisce a tavola, che sia la colazione, che sia il pranzo, che sia la cena. Con i tempi che corrono è praticamente possibile che sia la colazione, il pranzo e la cena. E anche qui è la bellezza dello scegliere un momento. L'intelligenza tutta femminile che sceglie il momento, laddove il fare che caratterizzerà in quel momento, diciamo, il pranzo, la cena, la colazione, quello che sia, e ognuno di questi momenti a seconda degli stili di vita corrisponde a un modello di organizzazione familiare, in quel momento la bellezza della tavola apparecchiata, la bellezza delle cose che si servono, la bellezza del sorriso con cui si serve, la bellezza dell'armonia delle conversazioni che si costruiscono intorno a quel clima, sono quell'essere facitori di bellezza che permette poi ad ognuno, come dire, di curare le ferite della giornata, se ci sono state, e quasi sempre ognuno di noi porta su di sé in ogni giornata qualche ferita, qualche puntura di spillo, qualcosa che o ci ha disturbato, o ci ha oggettivamente messo a disagio, o ci ha fatto percepire con particolare acutezza qualcuno dei nostri limiti o qualcuno dei limiti di chi ci stava accanto. Ecco, quel sentire che nella mia casa oggi io ho creato bellezza per le persone che amano, attraverso semplicità di gesti, ma attraverso intensità di motivazione. Non ho sciupato l'opportunità, se vogliamo dire con un termine biblico, non ho sotterrato un talento. Pensate in una famiglia in cui la madre investe ogni giorno il suo potenziale di creatività, di bellezza, di condivisione in uno di questi momenti. Pensate come la fatica non sarà mai abbastanza se l'obiettivo è ricucire i legami della giornata, ricucire i legami tra padre e figlio, ricucire i legami tra un fratello e l'altro, ricucire i legami dei figli con se stessa, ricucire la sua relazione con il marito, ma lo costruisce in un'armonia che ha la delicatezza dei punti che si mettono uno alla volta, conoscendo le storie di ognuno, le vicende di ognuno, le difficoltà di ognuno, e lasciatemelo dire così, conoscendo anche i gusti di ognuno. Quella capacità di avere sulla tavola quella cosa perché piace a Tizio, quella capacità di aver pensato a quell'altra cosa perché piace a quell'altro, quella capacità per ognuno di sentirsi riconosciuti in quel gesto. Io ci sono, Ci sono perché sono stata generata nella fantasia che mi ha pensato, sono stata generata nella preoccupazione che qualcuno ha espresso di farmi contento. E allora capite che ci vuole da un lato la capacità di riconoscere il gesto, dall'altro ovviamente la capacità di compiere quel gesto. E in questa dialettica che è fatta di gratitudine, ma è fatta anche, come dire, della dimensione del servizio, si sta creando nei fatti la bellezza del far famiglia. Perché la bellezza del far famiglia non è una sorta di utopia, non è una entelechia astratta, buona, per scriverla su tutti i giornali: la famiglia è la prima cellula della società, la famiglia è il centro della società e tutto quello che vi pare che si possa scrivere. La famiglia la genero ogni giorno. E generando famiglia genero bellezza. Ma in questa bellezza di generare bellezza nel quotidiano, probabilmente la stragrande maggioranza di voi ha anche un lavoro professionale, da qualche parte, in qualche luogo, in qualche contesto. Generare bellezza attraverso il proprio fare, che è come dire attraverso il proprio lavorare nell'ambiente professionale, è oggi cosa tutt'altro che facile e tutt'altro che scontato. Il lavoro corre il rischio di diventare il contesto in cui le tensioni si esasperano, le contrapposizioni raggiungono un livello di tensione molto forte. Il lavoro può diventare il contesto in cui il parla al male di uno degli altri è uno sport pressoché abituale. Può diventare il contesto in cui fare le cose ai minimi indispensabili richiesti, e probabilmente a volte anche a meno dei minimi indispensabili richiesti, può diventare, come dire, un modo elegante dietro il quale poi ci si giustifica scaricando colpe e responsabilità su chiunque altro. Tutti noi siamo incappati molte volte in quelle che si possono chiamare le cosiddette molestie burocratiche. Non si può fare, non è possibile. Quella dimensione di un lavoro a cui manca sempre qualche cosa, perché non siamo mai al punto. Immaginate quando andate in un ospedale. E a volte mi sembra incredibile che ciò che è ovvio alla sensibilità di una persona anche semplice, che se ho bisogno di questo, ho anche bisogno di questo, ho anche bisogno di questo, ho anche bisogno di questo, e ti fa presupporre che chi governa i processi abbia creato una sorta di filo d'arianna. Viceversa, tu hai la sensazione di essere in un labirinto a cui continuamente poni delle domande che probabilmente esauriscono anche quel quesito, ma non tengono conto che quel quesito è un quesito di processo, quindi poi presuppone che ci sia un'altra cosa, ma non poteva dirmelo che c'era bisogno. Allora, la bellezza del fare nel lavoro professionale è la bellezza del servire, ma il servire non è come un'etichetta che io appiccico sulle cose, è veramente quella espressione profonda che dice: per servire, servire, quello che fai deve essere utile. Deve essere, come dire, ben fatto, deve rispondere realmente ai bisogni di quella persona, ai bisogni di quella comunità, ai bisogni di quella realtà. Pensate, che so io, la bellezza del fare di un insegnante. Non c'è dubbio che il suo fare è un mobilitare le intelligenze, le risorse, le capacità, se volete, di socializzazione, la fantasia, l'immaginazione dei suoi studenti, perché siano capaci di realizzare qualcosa che non credevano nemmeno che da soli sarebbero stati capaci di fare. Cioè, quella bellezza maieutica del fare nel proprio lavoro professionale ha reso disponibili risorse di cui non credevamo di poter disporre. E ognuno di noi può sapere se quello che sta facendo è visto in una dimensione puramente frantumata, cioè nella sua singolarità, senza tenere alcun conto di ciò che viene prima e soprattutto alcun conto di ciò che viene dopo, e quindi lasciare, come dire, dei fili spezzati. laddove invece la bellezza è questo tessere continuo di una ricchezza che diventa veramente qualcosa che attraversa il tempo e crea in una comunità la possibilità di poter contare gli uni sugli altri. C'è quindi la bellezza del fare come opera d'arte, c'è la bellezza del fare nel fare familiare e c'è la bellezza del fare nel fare professionale. C'è quest'altra poi dimensione che vi dicevo, la bellezza dell'amare. Ma che significa la bellezza dell'amare? Tutti noi sperimentiamo la bellezza dell'amare nella sua dimensione riflessiva, quando ci rendiamo conto che per qualunque motivo in questo momento ci sentiamo soli, il famoso mal di vivere. Sapete che la patologia, la seconda patologia al mondo più diffusa è la depressione, l'OMS la pone al secondo posto. E in questa depressione ci sono tanti aspetti che confluiscono, adesso non voglio entrare in questo quadro, c'è una depressione fortemente patologica, che è la cosiddetta depressione maggiore, ma c'è, contribuisce a questa straordinaria comunque epidemiologia della depressione, il cosiddetto mal di vivere, che è una patologia diffusissima nei giovani, diffusissima negli anziani, diffusissima anche negli adulti, per così dire, in carriera, nel momento in cui si fermano un attimo. È straordinario vedere persone che non avrebbero mai pensato di poter andare soggetti a questa sorta di patologia del vivere, questo male esistenziale, quando incappano in una piccola delusione, una speranza che si frantuma, un risultato che avrebbero voluto ottenere che non ottengono. In quel momento voi avete come una specie di soufflé, no? Che automaticamente si siede, tutta quell'energia vitale che sembrava messa in un fare di qualche tipo a un certo punto si smonta. Perché si smonta? Perché in quel momento ti sembra che nessuno ti ama. L'anziano si sente solo perché pensa che figli, nipoti, poi con la testa capisce che ognuno di loro ha le sue preoccupazioni, che ognuno di loro ha le sue tensioni, ma non, il capire non colma il bisogno di amore che comunque c'è nel suo cuore, quindi questa sensazione disperata di solitudine. I giovani spessissimo si sentono soli, maturano anche in questa loro indignazione nei confronti della società, in questa ostilità che percepiscono nei loro confronti, nella frantumazione del patto intergenerazionale tra di loro e gli adulti, sentono che qualcuno sta rubando loro il più prezioso dei beni, che è la loro stessa gioventù, perché non gli permette di mettere in gioco in questa gioventù ciò che sono, talenti, esperienze, forse non ancora fatte, però magari sognate negli anni della formazione universitaria, negli anni della formazione precedente. Cioè, quando non ci si sente amati, è pressoché inevitabile andare in depressione. E vale anche, come dire, il reciproco di questa cosa. Quando ti senti depresso, probabilmente, se ci pensi, è perché ti sembra che nessuno ti ami. Non è che ti sembra con la testa, perché magari sai che i tuoi figli che stanno là ti vogliono bene, ma non è un sentire. Cioè, è perché la bellezza presuppone lo sperimentare. Diceva prima bene Rosalba, quando diceva la bellezza del sentire, la bellezza del vedere. Sì, lo so che tu mi vuoi bene, ma quando ti vedo? Ma quando ti sento? Ma quando ti tocco? Ecco, la bellezza dell'amare fa sì che, vedete, ricordate quel vecchio proverbio, lontan dagli occhi, lontan dal cuore. Detto così sembra una di quelle saggezze popolari, un po' di poco conto, però noi dovremmo invece elaborarla in una maniera del reciproco di questa affermazione, che è quella per cui tu dici, se ti amo ci sono, non posso dare per scontato. Perché vedete, ci sono dei momenti in cui c'è una sorta di bilanciamento, ma vediamo un po', immaginate di vivere 90 anni, che a attualmente è l'ipotesi più realistica che c'è. L'età media adesso della donna è 86 anni e si dice che nel giro di 3 anni sarà possibile arrivare, cioè adesso gli ultranovantenni sono tantissimi. No, no, lasciatemelo dire. Noi abbiamo l'età del fare con un'età di un fare professionale intenso. Oggi, posto che a 30 anni sono ancora in cerca di lavoro e posto che li vogliamo andare in pensione tra 60 e 62, diciamo l'età è quasi di 30 anni. Ma questi 30 anni di mezzo, immaginate una curva, in cui la bellezza percepita da noi può essere anche la bellezza di una energia vitale che si proietta verso il mondo e che cerca di, come dire, di conquistare il mondo, a fronte di questa esperienza, che disgraziatamente oggi si declina spesso in una percezione di solitudine, in una percezione di autoreferenzialità, in una percezione di autodeterminazione, in una percezione per cui se il rapporto fra di noi va in crisi, pazienza, tu vai per la tua strada, io vado per la mia, tanto io so cosa devo fare, cosa posso fare, cosa voglio fare, e la bellezza che io percepisco è la bellezza di un cono d'ombra molto ristretto. Gira, arriviamo subito a 60, forse qualcuno pensa che ci vuole un po' di tempo, ma si arriva subito, e in quel momento mi percepisco solo, mi percepisco che non riesco. C'è gente che implora, fatemi fare qualcosa, aiutatemi a dare un senso. E allora o ha imparato ad amare davvero e non si improvvisa, attenzione a non confondere la capacità di amare, come succede spesso in gioventù, a quella tempesta emotiva che ci prende un po' il cuore, no? Molto spesso oggi si confonde la capacità di amare con questa esperienza, no, del sentire, con questa esperienza di una sensibilità a fior di pelle, con questa capacità di declinarla in senso edonistico, no? Finché stiamo bene insieme. Perché oggi è così in crisi il concetto di fedeltà? È uno dei valori drammaticamente più in crisi. La gente è convinta che il matrimonio non possa essere per sempre, perché una cosa era dire il matrimonio per sempre quando l'età media erano 40 anni. Allora, vabbè, ti sposavi a 20, si poteva fare. Probabilmente c'era anche una certa diversità maggiore di età, per cui uno, che Dio l'abbia in gloria, magari moriva prima. E quindi la vita. Ma adesso, 50 anni insieme con tutti i cambiamenti, richiedono una fedeltà eroica, richiedono lo scoprire la bellezza della fedeltà. Guardate, se voi chiedete alle vostre amiche, gente che scommette sulla bellezza della fedeltà come bellezza dell'amore, che è capace, per esempio, di perdonare ogni giorno. Vi ricordate quella famosa frase della Sacra Scrittura? Signore, quante volte devo perdonare mio fratello? 70 volte. Ah, ma era il fratello, mica era mio marito. Mica gli ha detto quante volte devo perdonare mio marito, o mica gli ha chiesto quante volte devo perdonare mio figlio, o mica gli ha chiesto quante volte devo perdonare mia madre. Eppure se non c'è questa bellezza del perdono, Se voi chiudete un attimo gli occhi, si fa per dire, e immaginate nella Sacra Scrittura qual è l'immagine più potente della paternità di Dio. Non so quale vi venga in mente, però se qualcuno di voi negli anni del Giubileo era in circolazione, sa che c'è un quadro che esprime la bellezza della paternità di Dio. È il quadro di Rembrandt su il figlio al prodigo. Quello è stato il simbolo del 1999, l'anno del padre. È quel quadro, il padre mio. Perché tutti sostengono che in realtà quella parabola, più che la parabola del figlio prodigo, doveva chiamarsi la parabola del padre che perdona. Cioè, se c'è un simbolo forte dell'amore, quindi dell'amore e della paternità di Dio, l'approccio, l'abbraccio il cosiddetto abbraccio benedicente, che è il titolo del quadro, è cioè di quello che dice: oh, ma gliela proprio perdonate tutte. Allora la bellezza dell'amore non può che avere questo paradigma, e la fedeltà non può che essere quella faccia della medaglia che ha come controfaccia quella del perdono. Non esiste la bellezza della fedeltà, e questo basta interrogare qualcuno che festeggia 50 anni di matrimonio, e basta chiedere: scusa, ma come avete fatto in un tempo come l'attuale, in cui è sempre la stessa cultura? Questo è il fascino perverso dei surrogati della bellezza, perché quando io investo esclusivamente, riduco l'amore a emozione e riduco la bellezza, come dire, a una specie di bengala che si accende e poi si spegne subito, non è possibile che durino questi rapporti. Non è possibile. Non hanno in sé quella spina dorsale che gli permette di durare. E credetemi, parlo forse alle mamme, soprattutto presenti in questa sala, non c'è nessuna educazione al perdono, perché al contrario, l'educazione che si fa è di questo tipo: non farti mettere i piedi in testa. Anche nell'amicizia, quella si approfitta sempre di te, quella ti chiama soltanto quando ha bisogno di qualche cosa. Cioè, c'è sempre come la percezione che la persona che noi amiamo non ci appartenga del tutto, che qualcun altro possa, come dire, allungare la sua mano su di lei, e quindi peraltro per prendere per sé cose che noi immagineremo che fossero per noi. Cioè, siamo competitivi sullo stesso tempo, competitivi sugli affetti. E questo non ci permette di scoprire la bellezza. Prima lei è stata molto carina nell'introduzione, quando ha fatto riferimento esattamente a questo, alla ricchezza della maternità, alla grandezza della magnanimità e alla piccineria della petulanza, che di ogni cosa che si vede fa il conto di quello che manca. E quindi quella specie di spirito critico che ti porta a dire: ti dirò di più. Questa è la dialettica dell'amare. Sappiamo avere la magnanimità, ed è il motivo per cui quando noi amiamo una persona riusciamo a cogliere in quella persona quegli aspetti di bellezza, di bontà, di capacità che qualcuno che non l'ama non vede. Amare, questo è un po' il titolo, poi tra l'altro specifico del taglio di questa mia conversazione: solo chi ama sa creare bellezza. Non ci illudiamo, anche la bellezza del creatore dell'opera d'arte è fatta di un provare e riprovare infinite volte finché non ottiene il risultato che desidera, è fatta di una generosità incommensurabile nel tempo. Solo chi ama crea bellezza, ma solo chi ama crea la bellezza del rapporto, è la bellezza dell'amicizia che sfida il tempo, che si fa generosità, che si fa magnanimità. Io credo che ognuno di noi potrebbe dire quanto vale, cioè se dovessimo creare un descrittore del nostro comportamento per dire quanto siamo capaci di amare, basterebbe chiederci: quanti amici ho che io mi trascino dietro da? Cioè, i miei amici sono solo i miei compagni occasionali di strada? Quelli con cui in questo momento ho qualcosa in comune perché stiamo facendo qualcosa, Quindi sono funzionali a un obiettivo, a un progetto, a un programma che stiamo realizzando. O io mi porto nel cuore in una gestazione continua, alcuni amici che chiamo, che vedo, che sento, che mi chiamano, che mi vedono, che mi sentono, anche con motivo di una necessità, perché questo è il bello dell'amicizia. Ti ho chiamato perché avevo bisogno di... Ti ringrazio che mi hai chiamato, ti ringrazio che hai pensato a me per il tuo bisogno. Certo, il tema è se mi chiami solo quando hai bisogno, no? E solo quando hai bisogno te, ma questo è un altro discorso. Ma che tu possa chiamarmi quando hai bisogno, questo è il senso della nostra amicizia, questo è il senso del mio amarti. Tu credi che io possa amarti, cioè mi stai facendo credito di una generosità del cuore che forse chissà se non era una generosità in qualche modo sopita, dormiente, e tu la stai risvegliando. Questa è la... Noi quando amiamo una persona, tutti, nel momento del suo bisogno, ci scopriamo capaci di fare cose che non avremmo mai saputo. Quella persona ci sta regalando l'opportunità di sentirci capaci di... E questa è la bellezza che noi percepiamo, che è una bellezza nel gesto di amore, ma è anche la bellezza che ci rivela ciò che noi siamo. Ecco, vedete, quella bellezza che, dico, inizia da una dimensione puramente contemplativa, contemplo il bello che qualcun altro ha fatto, che diventa il bello dell'amore che ricevo, il bello dell'amore che do, a un certo punto diventa anche quella sorta di epifania del bello che c'è in te, che c'è in me. Scopro, tutto sommato, di essere buono. Scopro che in me c'è una bontà. Diceva Sant'Agostino nella citazione che faceva prima Rosalba: tardi ti ho scoperto, o bellezza tanto amata. Tardi ti ho scoperto. E quando voleva dire tardi ti ho scoperto, o bellezza tanto amata, si riferiva a Dio. Ma in questa bellezza tanto amata che lui aveva scoperto tardi, c'era anche la bellezza sua di poter stare in rapporto diretto con Dio, di poterci parlare. Allora ecco che la bellezza del fare, la bellezza dell'amare ci rivelano una bellezza che è in noi. Il problema che c'è sempre, no? Quando si parla di bellezza, ricordate il famoso proverbio: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. In realtà è un problema malissimamente posto, perché ci piace ciò che è bello perché ha in sé un potenziale di bellezza che contemplo, ma anche un potenziale di bellezza che si realizza attraverso di me. Cioè, come dire, torni a casa e ti senti più buona, torni a casa e ti senti più capace di un gesto che crea bellezza, di un gesto che crea armonia. Pensate a quegli ambienti rissosi, violenti e volgari. Mi riferisco alla volgarità delle parole, dei linguaggi, mi riferisco alla brutalità dei gesti. Bene, provate a frequentare un ambiente di questo tipo. Dice: oh, ma cosa credi che io frequento questi ambienti? Sì, io li frequento tutti i giorni perché quello è il contesto in cui vivo. Ma provate a frequentare un ambiente di questo tipo, voi tornate involgariti. Cioè vi scoprite a dire delle parolacce che non avreste mai pensato, ma a furia di sentirle c'è un contagio nefasto, c'è una sgarberia di sistema che è contagiosa. Viceversa, un ambiente bello esprime un'armonia anche nei gesti, anche nelle parole, anche nel tono di voce. Non ho bisogno di urlare. Ragazzi, ma com'è possibile che non si urla? Io mi ricordo, prima lei parlava del Campus Biomedico, tre cose in particolare che ci facevano notare alcuni malati. Una, mi ricordo: ma cosa ti piace di questo ospedale? E uno che di tutti immagini, cioè, i medici sono bravi, passavano la vita a cercare di formare i studenti, i medici tutti bravi. È che in questo ospedale non si urla. dall'inizio del corridoio, tu non chiami quello che sta in fondo al corridoio così. Questo ospedale non si urla. L'altra cosa è che questi ragazzi non utilizzano quell'intercalare involgarito di certe parolacce che si sente dovunque. Perché se nessuno le dice, non le dici neppure tu. La tragedia della parolaccia è il contagio immediato, assoluto, diretto. È come quando tu vedi un pezzo di carta lungo il muro, un po' staccata, e ti viene proprio istintivo di strapparla tutta. Non ti viene istintivo di incollarla, ti viene istintivo di strapparla. E questa è quella bellezza dell'essere che è nello stesso tempo un contagio che io ricevo dall'ambiente e che in qualche modo mette in gioco qualità e virtù. Allora, qual è l'ambiente bello? Quello con le pareti tutte dipinte per bene? Quello tutto ordinato? Quello con i fiori freschi messi nell'angolo? Sì, se questo ambiente rende migliori le persone che ci vivono. Cioè, se questa bellezza, dalla bellezza dell'oggetto, diventa una bellezza dei soggetti. E diventa una bellezza dei soggetti nel modo di muoversi, nel modo di fare. Quindi, questa bellezza dell'essere che traspare. E poi la quarta sfaccettatura, che era la bellezza del sapere. Guardate, la bellezza del sapere è la bellezza del conoscere la verità. È la bellezza di non farsi sedurre dal fascino dell'errore, di non farsi sedurre da una, come potremmo dire, una apparente verità che tale non è e che mistifica profondamente il senso delle cose, il modo in cui le cose sono davvero. C'è una, come dire, una seduzione della falsità delle cose alla quale per resistere bisogna contrapporre il coraggio di quella, ricordate quell'espressione così cara a Dostoevskij quando diceva attraverso il suo romanzo la bellezza salverà il mondo. Cioè la bellezza, e però questa bellezza che non può essere l'errore. Non può essere la falsità, non può essere questa cultura gossipara che scimmiotta come vere cose che non hanno nemmeno un briciolo di verità. E allora, guardate, c'è nei rapporti umani la bellezza di quella persona che cerca di capire come stanno davvero le cose. Cioè la bellezza dei cercatori di Dio che sono anche al tempo stesso cercatori di verità. È la bellezza di chi, potremmo dire, pensa prima di parlare. È la bellezza di chi non si accontenta, l'ha detto la televisione. È la bellezza di chi non si accontenta di dire c'era scritto sul giornale, perché l'ha detto la televisione, dovremmo andare a capire che programma era, chi era, che diceva, in che contesto. L'ha letto il giornale, ma che giornale, che giornalista, in che contesto, con che intenzione. Quindi la bellezza del cercatore di verità è quella pulcritudine dell'intelligenza che non si sottrae alla fatica dello studio, che non si sottrae alla fatica del pensare. Ricordate Paolo VI nell'enciclica Populorum Progressio utilizza una frase che poi Benedetto XVI ha ripreso nella Caritas in Veritate e dice: il mondo soffre per mancanza di pensiero. E guardate, tutta la catechesi di Benedetto XVI, scusatemi, tutta una catechesi centrata, su questo voglio spendere due parole e poi magari facciamo una sosta e se volete fare delle domande facciamo delle domande. Tutta la catechesi di Benedetto XVI si centra su questo valore: dilatare gli spazi della ragione, cioè aiutarci a ragionare di più. Il famoso, chiamiamolo così, incidente di Ratisbona, quello per cui fu impallinato dalla stampa, soprattutto dalla stampa italiana, eccetera, eccetera. Il senso di quella frase famosa utilizzata, quella citazione posto del paleologo, diceva sostanzialmente questo: non si può imporre la religione con la violenza. E altre volte lui ha detto: non si può mai presupporre la verità, cioè occorre capire. Non possiamo avere l'arroganza di quelli che credono di sapere tutto. E anche quando fortunatamente sappiamo qualcosa, e sappiamo anche noi, diciamo molte cose, non basta che le sappiamo. Dobbiamo saperle condividere. La bellezza del condividere, cioè la bellezza di un dialogo che ti fa andare incontro all'altro come un cercatore di verità, presupponendo che anche l'altro sia un cercatore di verità. Recentissimamente Benedetto XVI ha fatto, come dire, un endorsement nei confronti del pensatore laico, dicendo: ci sono dei laici, c'è sempre la dialettica tra laici e cattolici, eccetera, ci sono dei laici che sono dei sinceri cercatori di verità e che sono più vicini a Dio di alcuni credenti che in realtà hanno chiuso le loro verità in fondo al cassetto. Perché dico questo? Non perché noi dobbiamo vagheggiare di essere dei pensatori laici, se non lo siete non dovete fare nessuno sforzo per diventarlo. Tutto lo sforzo lo dovete fare nel diventare pensatori, cioè gente che pensa. Pensate che il prologo del Vangelo di San Giovanni comincia dicendo così: in principio era il Verbo, cioè la parola, il Logos, e la parola era presso Dio, e il Logos era Dio. Cioè, la ricerca della verità e la bellezza della verità non deve farci mai aver paura di confrontarci con nessuno, non deve mai farci avere paura di aprire un dialogo, ma quello che dobbiamo fare è averla, come dire, lavorata questa verità. Immaginate di comprare la farina, che tutto sommato, metterla là, vicino ci mettete un uovo, vicino ci mettete lo zucchero e li mettete là. Cioè, quella è la verità della torta. Caspita, mangiatela un po' così. Ecco, la verità è questa capacità nostra di lavorare costantemente a partire da elementi di verità, ma di lavorarli fino a che punto l'altro possa mangiare questa torta e dire quanto è buona, per non dire anche quanto è bella, ma perché l'abbiamo lavorata. Allora ecco che la bellezza della verità a tutti noi ci esige questa disciplina della ricerca, ci esige la capacità di amare la verità, amarla appassionatamente. Avete amare l'altro, amare la verità, amare le cose che si fanno, farle con amore. Sono tutte le infinite sfaccettature che ci permettono di dire che solo chi ama è capace di creare bellezza. E d'altra parte, ciò che è creato per amore non può che essere bello. E d'altra parte la bellezza, quando è autentica, ci rivela sempre un qualcuno che ha creato con amore, che ha creato, quando noi vediamo la perfezione, cioè il fondatore dell'opera, che quando una delle cose che lo commuovevano di più era quando saliva sul Duomo di Burgos. Il Duomo di Burgos è un'antica cattedrale spagnola. A me mi faceva lo stesso affetto per analogia, non ero mai salita sul Duomo di Burgos, anche il Duomo di Milano e molte altre cose nella vita. Quando tu vedi cose che non si vedono a occhio nudo, perché da sotto ti basterebbe, invece vedi con quanta infinita delicatezza qualcuno ha lavorato anche nei dettagli. Se voi vedete la bellezza di questi capi di moda che sono qua, che sono, e poi andate in uno studio televisivo e vedete i costumi di scena, vi rendete conto che nei costumi di scena non ci sono orli che tengano, nei costumi di scena, no, perché lì è la pura apparenza. Allora, l'apparenza dei rapporti, l'apparenza strumentale dei sentimenti, l'apparenza della verità. Questa è la tragedia del nostro tempo. Dobbiamo tornare a lavorare su, per rimpadronirci di questo senso, come dire, della serietà, della gravità, del rigore, però non sono pesanti, hanno la lievità della bellezza. Diceva una volta, non mi ricordo se era Liliana Cosi o Carla Fracci, comunque una delle due dell'occasione in cui l'ho incontrata, certo, per ballare così, con tale leggerezza e con tale naturalezza, per ballare ci vogliono 8 ore di allenamento tutti i giorni, quelle che nessuno vede. Per suonare quell'armonia ci vogliono 8 ore di allenamento, per vincere quel salto alle Olimpiadi ci vogliono 8 ore di allenamento. Cioè, la bellezza del gesto presuppone la fatica del dono di sé. Ed è in questo dono di sé che si costruisce poi la bellezza dell'essere, la ricchezza dell'essere. E allora concludo quello che dicevamo noi, i nostri ragazzini, quando lavoravamo con i più giovani, era la bellezza è far bene le cose, fare il bene e voler bene, perché alla fin fine la bellezza coincide con ciò che è in qualche modo anche la bontà dell'essere, la bontà del fare, la bontà della verità.